Hashtag Autotrasporti. Buonasera, buonasera ad Andrea Ferro ed eccoci al nuovo appuntamento speciale con Hashtag Autotrasporti, il programma in onda il lunedì alle 13.45 dedicato al mondo dei trasporti. L'approfondimento di questa sera è un faro gettato su un'emergenza che riguarda la logistica in generale, la nostra rete stradale, un'emergenza forse passata un po' sotto traccia. Parliamo dei ponti sul Po, chiusi o percorribili solo in parte, che scavalcano il grande fiume e uniscono Lombardia ed Emilia nel triangolo compreso tra le province di Parma, Cremona e Mantova, con propaggini nel Piacentino e nel Pavese. Ponti ormai vecchi e malandati che non garantiscono più le condizioni di stabilità e sicurezza e per i quali, e questo è il nocciolo della questione, non esistono alternative praticabili nel medio e breve termine. Questi ponti stanno diventando un po' l'emblema di una rete infrastrutturale inadeguata rispetto alle esigenze della mobilità e della logistica, discorsi che avevamo già fatto nei mesi scorsi, dopo la sequela di crolli, anche come ricorderete purtroppo con vittime. Risale giusto ad un anno fa il cedimento del cavalcavia di Annone Brianza in provincia di Lecco, crollato al passaggio di un trasporto eccezionale. Tornando sul Po tra Emilia e Lombardia, è davvero un bollettino di guerra. Chiuso il ponte tra Colorno e Casalmaggiore, senso unico alternato in prossimità del Ponte Verdi che collega Rocca Bianca, San Daniele, Po, e poi lavori sul ponte Taro, il ponte tra Viadana e Boretto ingolfato dal traffico, ancora interventi sul ponte tra Pieve, Porto Morone in provincia di Pavia e Pievetta di Castel San Giovanni nel Piacentino. Stasera raccontiamo e spieghiamo quello che sta succedendo, le conseguenze di questa emergenza, con alcuni ospiti in linea con noi. Iniziamo con Giampaolo Serpagli, delegato alla viabilità della provincia di Parma, che insieme alla provincia di Cremona, diciamo così, è proprietaria del ponte tra Casalmaggiore e Colorno, la cui chiusura all'inizio di settembre ha inferto un durissimo colpo alla viabilità in tutta l'area. Buonasera Serpagli. Buonasera a voi. Ecco, ci racconta un po' cosa è successo. Lì la situazione è molto critica. Era stato fatto un intervento all'incirca 6 anni fa su progetto ANAS dalle due province, ma gestito dalla provincia di Cremona. Si è staccato di fatto un pezzo delle travi che sostengono il ponte. Abbiamo commissionato come provincia di Parma uno studio su tutte le travi al fine di capire bene qual era la situazione, e lo studio, diciamo, non ci ha dato i risultati sperati, nel senso che questo è un ponte molto datato, ha più di 60 anni di vita. I tecnici dicono che dopo 60 anni, soprattutto con i concetti di costruzione che c'erano all'epoca, i ponti vanno in parecchio sofferenza. Ponte chiuso di Casalmaggiore vuole dire 22.000 mezzi al giorno che devono trovare un'altra collocazione. Quindi il riassunto a oggi dello stato dell'arte è che tutta l'Emilia occidentale, per transitare verso la Lombardia, quindi passare Po, ha comunque delle problematiche. Ho letto che le regioni Emilia e Lombardia, insieme alle amministrazioni provinciali interessate, stanno deliberando investimenti per una serie di interventi che consentano una riapertura quantomeno parziale del ponte entro un anno. Nel frattempo si è parlato di varie soluzioni alternative, compresa quella di costruire un ponte di barche, ma è fattibile? Dunque, noi le abbiamo prese sul serio tutte le proposte che sono state fatte, le abbiamo prese sul serio, abbiamo chiamato le commissioni tecniche ad intervenire. Ponte di barche, AIPO ci ha subito detto che era impensabile perché in quel tratto il Po è parecchio largo. Quello che registrava AIPO era soprattutto il problema di secche e piene, cioè in quelle due fasce non si poteva attraversare il ponte. Quindi, conoscendo bene il nostro grande fiume, buona parte dell'anno sarebbe stato senza transitabilità. A questo punto bisogna costruire un ponte nuovo. Quella zona necessita comunque di un ponte nuovo. Un ponte nuovo vogliono dire all'incirca 90 milioni di euro, quindi un importo importante però su un'emergenza che noi non riteniamo più essere solo delle due province, ma essere un'emergenza nazionale, perché insomma tutto il sistema emiliano occidentale in queste zone sta vivendo una crisi forte e con i tempi che ho detto prima probabilmente ne avrà ancora per un bel pezzo. Giampaolo Serpagli, delegato alla viabilità della provincia di Parma, grazie per essere intervenuto stasera a Radio 24 e buonasera. I ponti chiusi, i collegamenti spezzati, significano, come si diceva in apertura, conseguenze pesantissime sulla logistica. Lo ricordiamo, in Italia quasi il 90% delle merci viaggia su gomma. Ora abbiamo in linea Piero Olzi di FAI Conftrasporto, una delle associazioni dell'autotrasporto. Olzi, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, come si riflette questa situazione sull'attività di un'impresa di autotrasporto? Beh, significa per le imprese dover affrontare un aumento dei costi spropositato dovuto al fatto che i percorsi si devono necessariamente allungare per trovare le strade alternative per poter andare a prelevare le merci e poterle portare in consegna. Conseguentemente, oltre all'aumento della strada e i chilometri, e credo che sia un fatto che chiunque possa capire, c'è un aspetto che riguarda anche le ore di guida, perché non tutti sanno probabilmente che le ore di guida di un autista sono contingentate nell'arco della giornata. Conseguentemente, il tragitto ulteriore che deve essere aggiunto al tragitto normale si trasforma in ore di guida che per le aziende rappresentano un aumento dei costi e una diminuzione di produttività da parte degli autisti stessi. A questo aggiungiamoci il costo del carburante e i costi complessivi generali che vanno a gravare sulle imprese, senza che questo venga riconosciuto dai committenti, che ovviamente hanno dei preventivi in mano che riguardano un determinato tipo di tragitto e quello vogliono spendere, non sono disposti a spendere in più. Olzi, mi faccia qualche esempio di come si allungano i tempi di un trasporto. Ah, dipende, lei consideri che andare da Casalmaggiore a Colorno normalmente richiede un quarto d'ora di tempo, in questo momento per fare lo stesso, diciamo, consegna significa dedicare almeno un'ora e mezzo, due. Da quello che abbiamo capito, è un intero sistema infrastrutturale che non regge più anche rispetto ai volumi di traffico diversi rispetto a quelli che si registravano quando questi ponti venivano progettati e costruiti. Assolutamente, anche perché i manufatti sono tutti quanti più o meno precari, anche quelli tuttora agibili rischiano con l'aumento del traffico di dover subire a breve lo stesso tipo di intervento. Conseguentemente la situazione è drammatica, significa che le regioni e lo Stato in modo particolare debbano affrontare questo come una vera e propria emergenza, emergenza nazionale. Emergenza destinata a diventare ordinaria, nel senso che ponti di queste dimensioni e con questi carichi non si costruiscono certo in pochi mesi. Ci vogliono 5 anni, questo è il tempo medio calcolato, perché tra fare l'appalto, la progettazione, l'appalto e la realizzazione, se va bene, 5 anni. Conseguentemente bisogna usare delle soluzioni tampone. Soluzioni tampone che al momento non si intravedono. Grazie Piero Olzi di FAI Conftrasporto e buonasera anche a lei. Buonasera a lei, grazie. Dicevamo che in un panorama di ponti vecchi, pericolanti e non più sicuri, le chiusure o le limitazioni al traffico hanno rivoluzionato la viabilità in questo spicchio nevralgico della pianura padana, flussi di traffico deviati, comuni che vedono la loro vita sconvolta da un'invasione di mezzi pesanti e auto. Non è solo un problema di circolazione, pensiamo anche all'aria più inquinata. Uno dei comuni che sta pagando a caro prezzo l'emergenza ponti sul Po è Viadana, in provincia di Mantova. In linea con noi il sindaco Giovanni Cavatorta. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Quanti abitanti fa Viadana? Siamo un comune di 20.000 abitanti, un territorio molto esteso, più di 100 km quadrati. Ecco, con la chiusura del ponte tra Casalmaggiore e Colorno, la vita del vostro paese non è più quella di prima. Sì, ecco, pensi che se prima il nostro ponte Viadana-Boretto era percorso da circa 14.000 veicoli al giorno, con la chiusura del ponte Colorno-Casalmaggiore se ne sono aggiunti altri 9.000, quindi la situazione è molto, molto importante, siamo preoccupati perché la nostra viabilità inevitabilmente ne risente, con tutte le conseguenze anche appunto di traffico, ambientali e di gestione di questa situazione. Mi fa qualche esempio pratico degli effetti di questi flussi di traffico che invadono le vostre strade? Tenga presente che noi siamo collegati a Casalmaggiore con una strada provinciale, l'ex statale Castelnovese, che attraversa il nostro centro abitato, ma anche frazioni come Cogozzo, Cicognara, e quindi si può immaginare come la viabilità di questa arteria, che è fondamentale, sia veramente abbia messo alle corde tutti questi centri abitati. Di conseguenza anche il solo passare, no, da una zona all'altra cittadina diventa veramente quasi un terno all'otto. Abbiamo anche cercato di sistemare quelli che sono i semafori che andavano a normalizzare il traffico e per dare priorità al passaggio di tantissimi pendolari che devono raggiungere la sponda emiliana. Ma questo non può durare a lungo, per dei mesi, mentre le prospettive hanno, insomma, ci stanno facendo così pensare anche che le previsioni più fosche, quelle di chiusura di anni, siano molto concrete. Secondo lei si può fare qualcosa per affrontare la situazione? Io credo che alla fine occorra che sia veramente il governo, lo Stato a questo punto, che possa prendere in mano la situazione e fare, io lo definirei un piano nazionale su tutti i ponti sul Po, a partire da Cremona, arrivare a Ferrara, perché serve veramente un impegno, oltre che economico, anche progettuale, per arrivare a intervenire su tutti i manufatti, perché altrimenti si tratta di mettere una pezza qua e là, ma non si va a risolvere il problema in maniera concreta, definitiva. Giovanni Cavatorta, sindaco di Viadana, grazie per essere intervenuto a Radio 24 e buonasera. Questo speciale di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Vi ricordo che il programma va in onda tutti i lunedì alle 13.45 e vi ricordo anche l'approfondimento su questi temi container in onda il sabato alle 13.15 con Massimo De Donato. Da Andrea Ferro, grazie per l'attenzione e buona serata. Hashtag Autotrasporti.